Potete 94 e basta, cioè 94, 1000 euro. Guarda che la mia è nera. Cioè 94, 92, 96. Nera come Parigi avanti. Eia, quella lì, guarda che poi ci vede la casetta della mia e la mia, che si giri lì a tre fondi. Quella lì, guarda la foto che c'è fuori, la macchina dietro c'è, la macchina mia. C'è una macchina dietro, una Amaranto arancione. Quella semi Amaranto la mia. Esatto, è solo una macchina a morte. 8.000 euro, anno matricolato 94, c'è un vantaggio di Cimiva, non c'è, se c'è un fumo di Sassari. Quanto sta prendendo? La base di 4698 sono i chilometri, però noi abbiamo messo questo. Di meno? Di meno, perché di meno non me lo faceva mettere, era fuori, allora ho messo una via di mezzo. Ma quando si è fatto 10.999? Guarda cosa c'è da fare, lì. Allora, piccoli accorgimenti da fare, un circo anteriore da controllare. Che è leggermente storto, te l'avevo detto, sono ricordi che l'accidente è stata davanti. Ma comunque non è stato posto, no? È stata bella, non la trambate. Mi è uscita, cioè le carene c'ha solo la filatura, si vede dietro tutta rinforzata, cosa dove ha preso un po' il corpo. Perché non fai fermo con qualche altra cosa? Facciamo un tipo di rame. L'ho messo qui tutto, però non l'ha preso quando stava scrivendo. Allora, quello che siamo riusciti a scrivere è quello. Vabbè, potevi mettere 1000 euro trattabile. Infatti ho messo quello, non c'è scritto 1000 euro trattabile. No, questo 1000 euro c'è scritto. No. L'ha incasinato, amico. Che cosa l'ha messo? Che cognato l'ha messo? Ha inviato la Merizio 25 aprile alle ore 12.19, modifica lì a promuovo il tuo annuncio. Vediamo un po'. Allora, si modifica, rimetti il cibo del tuo linea, no, rimetti in cima, accetta la punizione, aspetta. Io posso aspettare. No, ecco. Sì, rimetto il pannamento. Qui, fallo. Ok, ma io non più vecchia, faccia tu. Ventolato, capito? Ah, sì. No,